cosa hanno bisogno i bambini? Hanno bisogno di immediatezza, di colpo d'occhio. Non gli si può fare aspettare troppo, non gli si può dire ma poi vedrai che fra 5 anni, fra 6 anni vedrai questo. Per un bambino i 6 anni, 5 anni avanti, 6 mesi non esistono, semplicemente parli di qualcosa di fuori dalla coscienza. Per un bambino ciò che è importante è cogliere il momento presente. Il gioco non si gioca nel futuro, si gioca nel momento attuale. E allora, nell'apprendimento non possiamo coinvolgere il bambino nei cunicoli e nelle miniere del profondo. Lo possiamo fare solo se abbiamo preparato il terreno, altrimenti diventa una violenza. E per poter fare questo abbiamo bisogno di coartare e imprigionare il bambino. Ora, lo scopo dei simboli è quello di consentire un apprendimento che sia anche trasversale, di passare da una disciplina all'altra, di passare da un campo all'altro, ma per far questo occorre velocità. E mi rifaccio al discorso di cui abbiamo conversato qualche tempo fa sul libro di Baricco, I Barbari, un libro splendido sotto questo aspetto. Per poter passare da una parte all'altra occorre velocità. E il bambino ha bisogno di velocità, ha bisogno di immediatezza. Si dice che i bambini non sanno rinviare la gratificazione. E che questo quindi è un difetto. Da un certo punto di vista, se nell'adulto rimane l'incapacità di rinviare la gratificazione, certamente è un problema. Ma l'incapacità di rinviare la gratificazione può essere anche un grande alleato, perché vuol dire che noi stiamo in contesti erotici e piacevoli. Allora, noi possiamo essere totali solo nella misura in cui ciò che stiamo facendo in questo momento, non fra un mese o fra un anno, in questo momento, è coinvolgente. E quindi è molto diverso dal modo di pensare di Monsieur Bertin, citato da Baricco, il borghese che deve impegnare la vita con sforzo, fatica, dedizione e sofferenza per poter ottenere il riconoscimento sociale, per poter ottenere la ricchezza, tutta una serie di valori che dal punto di vista del bambino sono in mani stupidaggini, perché il bambino non è interessato al riconoscimento sociale futuro, non gliene importa nulla. Allora ascoltare la voce del bambino significa imparare a fare ciò che ha chiesto il Buddha, vivere nel qui ed ora in contatto con la realtà sensoriale del corpo. Un processo di apprendimento è tale nella misura in cui, come dicono i buddhisti, coinvolge tutto il corpo e non solo le parti astratte della mente. Ok.